Siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telese. La situazione è un po' fastidiosa. Ieri ha giocato addirittura per alcuni minuti una riserva del Crotone. De Rossi chiamato a entrare, che dice no, non sono io. Che... Una domanda da fare a Ventura: cosa ti ha fatto Insigne? Andreotti mi scrisse una lettera di suo pugno e io devo dire che io sono un po' tontolone. Ma vi rendete conto a che cosa vi ha imbesuito questo stato? Imbesuire, che significa geniale, raggirare nel vocabolario italiano. Io ho cenato dopo l'eliminazione con il senatore Antonio Razzi. Non mischiamo le carte in tavole. Tamecchio ha detto che si è preso 48 ore di tempo. Deve guardarsi allo specchio. E quando parlo di politica non parlate di politica. E quando parliamo di economia non parlate di economia. Spero che purtroppo il raffreddoraccio non si senta troppo. No, non si sente. Il giornale a pagina 11. Eccolo là. Sai che fosse un po' ubriaco. E nella lingua, come dentro i fossili, si nasconde la verità di un tempo. Reach out and touch me. È vero, c'è la verità di un tempo e c'è la verità di questo tempo, in questo giorno, in questi giornali, in queste notizie. Due protagonisti oggi al mio fianco: Nicola Lombardo, giornalista napoletano che rappresenta il sud e il calcio, e Aurora Lussana, settentrionale nordica, come sapete, ultra bergamasca, che rappresenta il nord e la politica. Perché? Perché si sono fuse entrambe e oggi il calcio è diventato l'apertura politica dei giornali. Buongiorno Nicola. Buongiorno a te. Buongiorno a tutti. Aurora, tu ti favi nazionale oppure eri contro? Sì, perché c'è la nuova linea della Lega, è nazionale, no? Appena la Lega diventa nazionale va a fare dei mondiali. È vero, questo è verissimo. Salvini è al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sui vivai. Chiedo, no, entriamo subito nel fritto misto. Dite subito un commento sintetico su come avete vissuto questa eliminazione. Nicola. Ma io in parte me l'aspettavo, e quindi, perché sapevo che sarebbe stato difficile, l'ho vissuta male. Tra l'altro sono andato allo stadio con mio figlio e mia moglie e ci siamo rimasti molto male, siamo stati molto delusi. Aurora, dove eri quando accadeva? No, a parte che avevo la riunione di condominio, ma sono tornata a casa un pochino prima proprio per vedere... Ah. Come titolano i giornali italici la Caporetto, che parlavo con te di Caporetto 100 anni fa, ma te dimmi, noi la dobbiamo finire di perdere partite di calcio come se perdessimo la guerra, diceva Churchill, no dai basta, finiamola qua. Ah, quindi sei guerra. Minimalista, va bene, entriamo nel fritto misto con la voce di Ventura. Pronto? Pronto? Buonasera, buonasera a tutti, sono Salvatore da Molfetta. Mister, dica la verità, volevo chiederle una cosa. Le piacerebbe un giorno allenare la nazionale? Sì. È la volta che arrestano quelli della federazione. Era lo storico audio di Antenna Sud che è riuscito fuori, il passato ci insegue nella rete. Lombardo, tremendo questo, eh? Assolutamente sì, però vorrei, così ci siamo. Vorrei dire che quando si parla di Caporetto non è una partita che si è persa, ci sono anche 100 milioni di euro ad esempio che non entreranno nelle casse, esatto, della Federazione Italiana Gioco Calcio, che sarebbero stati probabilmente reinvestiti. C'è un danno grave per televisioni che avevano, prendiamo la Rai, certo, che avevano impostato molto su questo, cioè il danno è anche economico. Interno lordo. Renzi sui mondiali, un'altra cosa che è riuscita fuori, era ottimista sulla Russia. Se non vi dispiace, vediamo se le produzioni agroalimentari saranno all'altezza delle aspettative russe. Non parlo più dei mondiali, se no c'è crisi diplomatica, perché vogliamo vincere i mondiali in Russia nel 2018, quindi fermiamoci qui. Aurora, questa te l'ha servita su un piatto d'argento, l'ottimismo al potere. Povero ragazzo, no, a parte che però è vero, dai, allora l'arroganza di Ventura l'avete sentito in queste settimane quando rilasciava le dichiarazioni, una boria, scollato completamente dalla realtà, tutto, tutto un gioco sbagliato in campo, i ragazzi lì che non si parlano fra di loro, non si capisce uno dove vanno. Poveri, no, diciamo che la cosa bella della serata è stato i commenti poi qua a casa mia, non di ogni, però ecco, no, diciamo che le cose belle di quella serata lì, che la Svizzera ha fatto un gran figurone. Cos'è? No, ti facciamo parlare su questo. Salvini alla Zanzara, qui è iniziata la collisione fra la politica e il calcio sugli stranieri. Qualunque allenatore o dirigente sportivo di squadre giovanili, squadre ragazzini che vi sta ascoltando, può confermare il fatto che se non metti un limite al numero di stranieri che giocano in Serie A, in Serie B, in Lega Pro, perfino in primavera, negli allievi, nelle giovanili, è chiaro che la nazionale ogni anno che passa è più povera. Allora, qui è nodo, ne parleremo fra poco. Vi dico subito come la penso. Forse tecnicamente il limite ai giocatori in Serie A per una sentenza Bosman è difficile da mettere, però sicuramente vanno tutelate le giovanili. In Germania credo l'8% sono stranieri, in Italia il 30%. Però qui Nicola è più preparato di noi. Nicola Lombardi. Sì, c'è la legge Bosman, è impossibile. Quando si dice bisognerebbe, sarebbe come dire che in una banca non possono, italiana, non ci possono essere degli inglesi o dei francesi, non è possibile. Cioè, però si possono tutelare i vivai, perché c'è già una norma che due giocatori devono venire dalle giovanili. Ma c'è anche una proposta di De Laurentiis, adesso io ogni tanto lo citerò, semplicemente perché anche, non solo lo rappresento, ma perché lui comunque dice delle cose forti che poi vengono spesso prese. La proposta, che già del 2011, era quella di creare le squadre B, come ci sono in Spagna, cioè del campionato di Serie A, dopodiché nella Serie B fare due gironi, un girone con le squadre di calcio, il Parma, il Vicenza, eccetera, l'altro con il Napoli B, il Milan B, eccetera. E queste squadre dovrebbero far giocare tutti quanti i giocatori, ma in una maniera più concreta e più seria, tutti quanti i giocatori del proprio vivaio, o comunque tutti quanti italiani. Questa ad esempio può essere una proposta. Curioso, cambierebbe molto. Guardate, Veltroni è tornato il suo nome oggi come possibile successore, erede di Tavecchio, sarebbe clamoroso. In libreria come scrittore, Veltroni, severissimo sul nostro calcio a Tagadà. È governato da logiche di potere, le leghe sono commissariate, non c'è un disegno strategico che riguardi soprattutto il calcio giovanile, ci sono le seconde squadre, pensano solo alla divisione dei soldi, dei diritti televisivi. Siamo un po' così, non ci siamo resi conto che abbiamo cambiato status. Aurora, potremmo dire che come leghista e come italiana e bergamasca sei contenta se Veltroni diventa presidente della Lega? Guarda, diamogli una benedizione bipartisan. No, guarda, c'è anche la bimba che mi si ribella dopo che hai citato il Veltroni. No, che parte la rivolta qui in casa mia. Parte la rivolta contro Veltroni. Sì, no, vabbè che abbiamo il Tavecchio. Guarda che è Comasco il Tavecchio. È Comasco. È Comasco, sì, l'optivi Bovali Tavecchio. Che non, pare che non voglia mollare neanche lui. Però niente, sì, non esistono le dimissioni in Italia. Non molla il Comasco. No, bimba, non arrabbiare. Allora, sentiamolo. Malagò che dà lo sfratto a Tavecchio. Oggettivamente non ci sono gli strumenti giuridici, tecnici, formali per portare avanti un commissariamento. Adesso ho sentito Carlo Tavecchio questa mattina, gli ho chiesto quali erano le sue intenzioni. È padrone, sulla base di quello che vi ho detto, di assumersi le responsabilità, perché non ci sono strumenti diversi. Se voi mi chiedete, perché tanto so che tra un secondo mi arriva questa domanda, io cosa farei al posto suo? Io mi dimetterei. Ma sì, santo Dio, sì, cioè esiste una responsabilità personale che di fronte a certi risultati diventa ineludibile. Un gesto di pulizia, di igiene. Sentiamo Geni Gnocchi, Renzi e i due Leocorni. C'è stata la direzione del PD e Renzi ha chiarito la sua nuova strategia elettorale. Ha cercato un'intesa aperta ad MDP, alle minoranze, ai rottamati, ai rosiconi, agli sciacalli, ai gufi, ai menagrami, agli iettatori, ai tafazzi, ai pisapia. Solo non si vedono i due Leocorni. Questo è grave. La gaipa, sentite, il primo indagato arresti a 5 Stelle. Ho scelto di candidarmi nel Movimento 5 Stelle. Nella vita ho fatto tante cose, ho un bellissimo bagaglio di esperienza che potrebbero aiutare il movimento a portare un bel risultato in questa meravigliosa avventura delle regionali. E comunque vadano le cose, vive il Movimento 5 Stelle. Allora, la Gaipa, imprenditore del turismo, avrebbe costretto i suoi lavoratori a firmare buste paga false, gonfiate, è stato sospeso, costretto ai domiciliari. È un bel, come dire, una bella rogna per i 5 Stelle, capita a tutti. Vuoi dire qualcosa, Aurora, su questo? Ti rallegra la normalizzazione oppure ti rattrista? No, no, vabbè, quello lo è, cioè, no, quello ci rattrista sempre, insomma, a parte che è una vicenda tristissima per i dipendenti, vabbè, quindi mi rattrista in primis per quello, no, ma poi vabbè, sono così ragazzi 5 Stelle, dai, vabbè, ormai li conosciamo loro, così, no, i puri che poi sappiamo come finiscono, però vabbè, sì, no. Bello che abbiamo tre opinionisti oggi. E allora con Nicola commento Meloni e Casini, perché questa commissione sulle banche ce ne farà sentire delle belle scintille in commissione. La domanda qual è? Arrivo, Presidente. Fare, diciamo che non facciamo solo domande su a che ora avete iniziato il processo. No, no. Non mi faccia innervosire. Arrivo. Scusi, no, domanda. Io non voglio fare innervosire nessuno, sono calmo, ho preso camomille. Se lei vuole tenere in piedi questa commissione, deve consentire di fare delle domande anche quando le dà fastidio, sì. Ma a me non dà nessun fastidio, non me ne porta nulla la sua domanda. Questo però, a prescindere dal merito, è proprio un bello scontro, la vecchia politica, la nuova politica, un uomo, una donna, caratteri, no? Sì, anche se la Meloni non è che sia proprio nuova politica, perché fa politica da, sì, quando, no, è vero, era bambina, da quando insomma, diciamo, però rispetto, però, a Casini, certo, diciamo, assolutamente. Noi siamo all'inizio dell'era geologica, però bei caratteri, si pizzicano. Borghi e Velardi, uno scontro meraviglioso sulla 7, all'aria che tira, in cui, beh, sentite. Il signor Velardi mi risulta che fosse stretto collaboratore di D'Alema negli anni in cui D'Alema faceva comprare al Monte dei Paschi Banca 121 per un miliardo e mezzo prima, a cifre assurde. Quindi questo scusi, Giovanotto, lei lo dice dell'acquisizione scandalosa di 121 da parte di MPS. Ma l'ha fatta D'Alema, quindi, quando lei era suo consulente. Che devo fare? Tu parla della banca della Lega. Cioè, qui siamo di nuovo nord-sud, Aurora, il napoletano Borghi. Velardi, il nordico Borghi, ma qui mi sa che aveva ragione Borghi, perché quello rimproverava a Borghi la banca della Lega e lui era a Palazzo Chigi. Sì, sì, che poi la Credi Euronorm... L'avevi sentito? La Credi Euronorm non fu certo salvata con interventi pubblici, insomma, ci hanno messo mano i leghisti al portafoglio, purtroppo, quindi insomma una vicenda tutta interna, anche quella abbastanza dolorosa, ma insomma non ha coinvolto scelte di governo, tantomeno insomma soldi pubblici, ecco, almeno quella. E no, scusa, però tu adesso mi devi dire per chi dice i mondiali in estelese, perché io non lo so, devo ancora decidere, perché la Svizzera, no, guardo sempre come giocano le squadre quando non c'è l'Italia. Non è ancora deciso perché ti ferai. Ah, va bene, vediamo. Allora, adesso, caro Nicola, entriamo in una fase mistica. Predolin su Rodriguez e Moser, siete autorizzati a non saperne niente, ma ora vi riassumo. Credo che per quelli anziani con i capelli bianchi della mia generazione, esibirsi cercando la telecamera se li inquadro o meno sia un po' troppo. E allora dico, dov'è l'amore e dov'è l'esibizione? Insomma, c'è una discussione che infuria da tre giorni su questo rapporto che si è consumato dentro la casa fra Moser e Cecilia Rodriguez. Verrebbe naturale un suntuoso chi se ne frega, però... Perché funziona? Non può esserci il chi se ne frega. Il romanzo dei giorni nostri. Il Grande Fratello, comunque, tutto quello che riguarda questo tipo di trasmissioni sono talmente seguite. Io non le seguo, ma so che c'è talmente gente che le segue in una maniera appassionata che bisogna rispettare questa cosa. E adesso passiamo a un argomento veramente serio. Ieri i video agghiaccianti ci riportano indietro di 100 anni, forse di 1000, ci riportano alla schiavitù. Persone vendute in Libia e Emma Bonino attacca Minniti. È evidente che magari ne sbarcano meno, ma che vuol dire che chi di più muoiono in mare o nei lager libici. Quindi mi sembra che siamo in una situazione drammatica di cui però mi pare che non si vuole prendere atto. Mi pare che anche ieri la direzione abbia, nonostante tutto, confermato la linea fin qui tenuta, che secondo me è una linea di tutta evidenza disumana. Aurora Lussana, leghista DOC, dove ti collochi? Sento un grido di rabbia della creatura. Sì, no, no, perché stiamo preparando la pappa, lei già nervosa. No, no, stavate parlando dei negrieri contemporanei. Sì, della... quelli che sono stati immortalati mentre vendevano schiavi. Ma lo sapevamo che era così, lo sapevamo. Guarda, questa vicenda la conosciamo da anni, poi certo le immagini ti fanno ancora più male, però l'Italia deve decidere come gestirla questa vicenda, se non vogliamo continuare a vedere queste immagini da minuti in più, ecco, quindi allora c'è la Barbie, vai, dominala e sentiamo Crozza che imita Minniti e gli ricorda che Gesù era palestinese. E poi non dimentichiamoci mai che Gesù era un palestinese. E quindi? Privo di documenti e di permesso di soggiorno. No, vabbè, non credo. Quindi tendenzialmente l'avremmo rimpatriato. Certo. È chiaro il concetto. L'avrebbero rimpatriato. Beh, Crozza quando batte il colpo non ce n'è per nessuno. Straordinario. Me lo fai risentire? Proprio un secondo, perché quella voce che prende quel respiro bellissimo. E poi non dimentichiamoci mai che Gesù era un palestinese. E quindi? Privo di documenti e di permesso di soggiorno. No, vabbè, non credo. Quindi tendenzialmente l'avremmo rimpatriato. Certo. È chiaro il concetto. Tendenzialmente strade. Facciamo un avvertimento sindacale. È immorale alzarsi a questo. Mattino. I già svegli. Ciao Radio 24, io sono sempre attaccato a te e mi domando che ho detto io su questo telefonino. Qualcuno ci va a votare, perché i politici si aumentano la paga due volte l'anno, le pensioni non l'hanno mai aumentate. Sti cornuti e ladri. Sono già sveglia perché ho 89 anni e a questa età si dorme poco. E stamattina ho ricordato il primo mondiale italiano del 34 quando io avevo 5 anni e il secondo nel 38 quando ne avevo 9. Gli altri due erano già madre di figli adulti. Vorrei fare una domanda allo signore Giannino, ma è giusto che l'allenatore Sventura pigliasse 1.400.000 euro l'anno? Mamma mia che roba! La debacle della nazionale non è niente altro che cosa, la debacle dell'Italia, un paese oramai senza futuro. Dal 1958 purtroppo l'incantesimo si è rotto. Ma adesso non siamo tutti qui a premiare, fra 4 anni potremo trionfare. Dai Forza Italia, dai che duma! Oggi vi siete superati, è la memoria del mondiale degli anni 30 e la rima piemontese sull'eliminazione. Nicola Lombardi, già svegli, do subito il numero 02 30 22 4492, non smettete di raccontare le vostre memorie di già svegli alla segreteria telefonica ai 24 mattino. Bella, quella che ricordo. Meravigliosa, complimenti. E una persona che ha chiamato qui in radio c'è la segreteria telefonica. Straordinario. Sono proprio il racconto contemporaneo della realtà. Aurora, sempre lì, sempre viva? Sì, facendo il cambio patello, il cambio pannolino, tutto a posto. Brava. No, non ho capito perché a me non mi hai fatto commentare lì il Manzo Padano, il Moser. È troppo facile, no? Scherzo, commentalo, commentalo. È vero, il maschio Furlan lì, mica male, non posso parlare, i maschi padani. Ah, no, pensavo non potevi parlare di Moser per qualche trascorso. Ricordami che sei madre! No, allora, sono ciclisti bergamaschi io. Ieri, se avete visto questo video, c'è Clarissa Marchese, una ragazza bellissima, giovane, sembra una bambola, e però con una testa, una grinta e anche una rabbia, perché è la prima delle persone che hanno accusato Fausto Brizzi, che ha dato il suo racconto di che cosa è accaduto in quello studio per quel provino. La mia è stata anche una violenza, come dire, più che altro psicologica. Io abbandonai l'idea di continuare quella possibile carriera proprio diciamo in seguito a quello che mi è successo. Chissà chi ha subito qualcosa, è giusto che parli, proprio perché magari una seconda persona che vuole fare la stessa cosa, ovvero chiedere qualcosa in cambio rispetto a una posizione di potere rispetto a un altro, ci pensa almeno due volte prima di chiedere qualcosa in cambio. Beh, una vicenda incredibile, però quando arrivano le testimonianze preoccupa. Voglio sentirvi entrambi. Nicola, ti sta appassionando questo Weinstein italiano? Mi sta inquietando, perché io ho una posizione netta. Secondo me chi abusa, e l'abuso è in senso generale, è un farabutto. Ed è un farabutto a prescindere, secondo me, se dall'altra parte trova delle donne, delle ragazze che siano in qualche modo consenzienti, perché nel momento in cui si approfitta del proprio potere, della propria anche personalità nei confronti di un soggetto in qualche modo debole, è un farabutto. E dopo, se vuoi, ti racconterò un episodio che è successo a me personalmente. Bene, Aurora, Clarissa Marchese, ovviamente non potevamo dare tutto l'integrale, ma racconta che questa cosa l'ha talmente turbata che ha smesso di immaginare di fare l'attrice. Immagino, ovvio, perché sarà sicuramente stata una vicenda traumatizzante. Io però, insomma, vedo che adesso le ragazze come lei stanno avendo le prime pagine, quindi mi auguro che ce ne saranno in tutti i settori dell'Esena, in tutti, né, mica solo... dove c'è il potere c'è l'abuso. Adesso una vicenda, questa, Nicola, è molto spinosa. Ne parlava ieri anche Salvini, e la vicenda del giocatore di una squadra dilettante che a Marzabotto ha festeggiato il gol togliendosi la maglia, esibendo una maglia nel luogo di una strage della Seconda Guerra Mondiale con il simbolo della Repubblica Sociale e facendo il saluto romano. Ha risposto a lui idealmente un sopravvissuto di Marzabotto ad Agorà. Uno che gioca per divertirsi, poi ti fa un gesto del genere, vuol dire che è premeditato, c'aveva la maglia con... Io a quel ragazzo lì ci vorrei dire, ma te fatti bene un esame di coscienza e studia la storia. Viene quasi un brivido, perché è molto umano, non chiede la decapitazione, dice studia la storia. Sì, perché possiamo anche creare dei forum di discussione sui ragazzi della Repubblica Sociale Italiana, sui partigiani, perché i repubblichini sono stati anche dal famoso discorso di Violante, certo. Non so se te lo ricordi, no, ma in qualche modo riqualificati, ma usare il calcio, ha ragione questo signore, era premeditato e non aveva, credo, un senso positivo, no. Questo gesto. Era, credo, infatti, secondo me, anche, come dire, se ci fosse un anziano che ha fatto parte della Repubblica Sociale, non ne sarebbe contento. Età, non ne sarebbe contento, no. Perché è un'esibizione contundente. Ecco, ma che cosa si dovrebbe fare con questo ragazzo? Andrebbe punito, sospeso? Sicuramente viene punito, ma a prescindere, perché poi paradossalmente le norme ci sono. Se anche lui avesse avuto, come dire, un marchio, la Coca-Cola, e avesse tirato fuori la maglietta, e veniva punito lo stesso. Non gli deve essere impedito di giocare. No, credo che però una squalifica, un'inibizione temporanea, dico per sempre, come ha detto qualcuno. Penso di sì. Bisogna che possa ragionare. A me farebbe piacere che potesse incontrare questo sopravvissuto. Magari lo puoi invitare qui. Magari sì, lo puoi invitare per farlo parlare. E può essere interessante. Non ci ha pensato, credo, ancora nessuno. È un'ottima idea per i nostri autori. Vedo l'ottimo Luca Sappino dietro quel vetro. Vedo il nostro possente regista. E capisco che è giunto il momento catartico del giornale radio. Babbaleo, impara a parlare. E impara la grammatica prima di leggere i giornali.